A bordo campo di Dario Ricci. Ultimi 200 metri di questa straordinaria gara di Gelindo Bordin, che sta per conquistare la medaglia d'oro nella maratona. Grandissima impresa dunque di questo azzurro, ripetiamo, tra i protagonisti di questa gara fin dall'inizio. Grandissima tenacia, grandissima convinzione di Gelindo Bordin. Ultimi 100 metri, si volta, ma il keniano Vacchioli è molto lontano, mentre ha ceduto il cibutiano Mestalem, e Bordin è a pochi metri al traguardo. Medaglia d'oro per l'azzurro nella maratona, che taglia il traguardo in questo momento. Si volta ancora e taglia il traguardo, alza le braccia e poi crolla sulla pista stanchissimo, ma bacia per terra, il bacia la pista dell'atletica leggera qui dello Stadio Olimpico di Seul. Mi chiamavano Professor Fatica. Questo è il libro di cui oggi vi vogliamo parlare qui a bordo campo, perché sfogliando queste pagine edite da Ediciclo mi è venuto in mente che, insomma, questa lettura davvero racconta una storia di un protagonista della nostra atletica leggera, e che fra poco coinvolgeremo subito nella nostra chiacchierata, ma che è soprattutto un libro che può essere anche utile per tanti di noi appassionati di corsa, maratona, footing, jogging e running, che possono davvero trovare in queste pagine anche tanti suggerimenti utili per divertirsi correndo nel modo migliore. E allora, chi è il professor Fatica che viene raccontato in queste pagine? Luciano Gigliotti, maestro, allenatore, luminare della nostra atletica leggera e della nostra maratona. Benvenuto professor Gigliotti a bordo campo. Grazie, buongiorno a tutti. A raccontarne la parabola a bordo pista, con grandissimi campioni, ne cito solamente due ori olimpici, Gelindo Bordin a Seul 88 e Stefano Baldini ad Atene 2004, Claudio Rinaldi, amico e giornalista e caporedattore della Gazzetta di Parma. Ben ritrovato Claudio. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, partiamo proprio da te Claudio con questa chiacchierata. Come ti è venuto in mente di prendere la penna e raccontare la parabola di Luciano Gigliotti, che appunto è un po' un punto di riferimento assoluto per quello che è la nostra atletica, per quello che è la nostra maratona? Ma guarda, io penso che la vita del professor Gigliotti meritasse davvero di essere raccontata, proprio perché lui è davvero un grande personaggio di sport, non solo della maratona del mezzo conto, di cui è addirittura un guru, perché quello che citavi, i due ori olimpici nella maratona, sono un record assoluto, perché ha firmato appunto le due sole medaglie d'oro nella storia della maratona italiana alle Olimpiadi, ma è davvero una bella figura di sportivo a tutto tondo e di grande cultura sportiva, un personaggio che davvero ho raccontato con molto piacere, e penso che anche le testimonianze dei suoi tanti campioni che ho intervistato per il libro facciano emergere non solo il grandissimo allenatore, molto bravo sotto profilo tecnico, molto autorevole, sempre aggiornato, sempre al passo coi tempi, ma anche l'uomo, e credo che l'aspetto umano sia altrettanto importante rispetto a quello tecnico anche nei successi dei suoi grandi atleti. Dicevamo Bordin e Baldini, ma anche l'oro di Maria Guida nella maratona agli europei di Monaco di Baviera del 2002, il bronzo olimpico ad Atlanta 1996 di Alessandro Lambruschini e tanti altri allori. Professor Gigliotti, beh, è vero, professor Fatica, ma si riesce a far sorridere questi campioni nell'inseguimento di questi trionfi, e soprattutto in una sfida estrema come quella della maratona? Ma senz'altro, intanto bisogna far passare il messaggio che non di fatica si tratta, perciò correre è bello, è piacevole. Ecco, professor Fatica, perché poi effettivamente c'è anche l'aspetto fatica legato soprattutto quando si parla di top runner, perciò di atleti che preparano eventi molto molto importanti. Professore, chiaramente ogni medaglia è quasi un figlio, no? Enfatizziamo, ma è così per chi la costruisce passo dopo passo, chilometro dopo chilometro. Ma c'è un'immagine, un momento che in qualche modo riassume un po' tutta la sua carriera? Ma sai, il momento è quello più gratificante, è quel momento, è il momento nel quale realizzi veramente questa impresa che ha qualcosa di incredibile, che non potevi ipotizzare, anche se poi l'hai preparata con certosina pazienza, cercando di non trascurare nessun aspetto dell'allenamento e della programmazione dell'allenamento. Ecco, la medaglia di Bordino a Seul nell'88, la medaglia di Baldini nel 2004 ad Atene, sono veramente qualcosa di talmente grande che è un po' così la ciliegina sulla torta, il coronamento di tanto lavoro, di tanti anni di lavoro. Però molto spesso noi siamo portati a dare un valore assoluto solo a questo colore di medaglia, la medaglia d'oro, e in quel determinato evento. Però anche laddove non ci sono state delle medaglie, lo stesso ci sono dei momenti bellissimi, non so, la finale olimpica a Montreal nel 76 di Carlo Grippo, il quinto posto di Fontanella a Mosca, non rimangono tanto nella storia, ma nella storia di un allenatore che è cresciuto con loro, che con loro ha lavorato, che con loro ha diviso bei momenti belli, momenti difficili, è estremamente anche questo appagante e gratificante, insomma. Eh sì, è vero, ci sono tappe nella storia individuale che scandiscono appunto la crescita di un atleta e di un uomo, e che magari però non entrano nella grande storia, ma che sono ugualmente importanti. Le chiedo tra l'altro una curiosità: ricordo, vado a memoria, che quell'oro di Gelindo Bordin arrivò a Seul praticamente nella mattina dopo la famigerata qualifica di Ben Johnson per l'arcinoto caso di doping. Ecco, in quel caso come riuscì anche a gestire un momento emotivamente molto importante per tutta l'Olimpiade? In che modo influì in qualche modo sulla prova di Gelindo, o come dovette intervenire per gestire dal punto di vista emotivo quell'aspetto? Ma sai, noi l'abbiamo vissuto dall'interno, perciò l'abbiamo sentito poco, anche se effettivamente quando è successo questo triste evento di Ben Johnson, l'intero villaggio olimpico è rimasto sconvolto, diciamo così, ma tu sei talmente concentrato in quella che è la tua gara che la cosa ti passa proprio sopra, non la percepisci neanche, cioè ci soffermi un attimo e vai avanti per la tua strada, soprattutto anche perché tu hai fatto scelte diverse e di questo vai orgoglioso, di questo sei fiero. Claudio Rinaldi, a sentir parlare il professor Gigliotti credo che già tu debba preparare la penna o per un secondo libro o per una ristampa di Mi chiamavano professor Fatica, perché gli episodi sono inesauribili. Direi che ad arricchire il testo che avete realizzato insieme ci sono anche poi le tabelle d'allenamento, no? di Baldini, di Bordin, che insomma sono anche una curiosità importante per l'appassionato che vuole in qualche modo avvicinare l'esempio anche tecnico di questi grandi campioni, no? Assolutamente sì. Mi chiamavano professor Fatica, non è un libro tecnico, però c'è un capitolo importante in cui spieghiamo, o meglio, il professor Fatica spiega le metodologie di allenamento, e poi c'è questa appendice, secondo me molto interessante, con le tabelle a confronto di Bordini e Baldini prima dei rispettivi ori olimpici. Sono le ultime 13 settimane di allenamento. È chiaro che chiunque, soprattutto chi ha è solito correre o fare qualche corsetta o anche qualche maratona, resta a bocca aperta a vedere il volume, le intensità degli allenamenti veramente spaventosi, perché viaggiavano al ritmo anche di 260-280 chilometri alla settimana, naturalmente due allenamenti al giorno, salvo la domenica pomeriggio che veniva spesso santificata, quindi facevano degli allenamenti veramente agli occhi di un comune mortale impressionanti. La cosa bella del libro è che per ogni settimana sono a confronto Bordini e Baldini, e per ogni settimana c'è il commento di Luciano Gigliotti che spiega appunto le scelte compiute man mano che si avvicinava la gara, perché tra l'altro tra le tantissime caratteristiche tecniche in questo caso di Gigliotti, quella che tutti i suoi atleti e tutti i colleghi sottolineano sempre, la sua straordinaria capacità di portare l'atleta al top della forma esattamente il giorno della gara importante, non il giorno prima e nemmeno il giorno dopo, il giorno giusto. Tra l'altro, professor Gigliotti, spesso olimpiadi e maratoni olimpiche che si sono corse in condizioni molto difficili, ricordo sia Seul che Atene, giornate molto calde. Ecco, provando un po' a dare anche dei suggerimenti al runner amatoriale, come potrebbe essere il sottoscritto, per affrontare al meglio anche l'impegno semi-agonistico, diciamo così, in questo periodo estivo, ci dia qualche suggerimento per poterci andare a divertire anche un po' al parco, noi amatori della domenica, appunto. Beh, intanto un suggerimento, il primo è: non sceglietevi una maratona estiva, fra l'altro ce ne sono pochissime nei mesi di luglio e di agosto. Per fortuna, così non cadiamo in tentazione. Se si va in Scandinavia, allora già il discorso cambia. All'amatore che consigli posso dare? Il consiglio di scegliere le ore più fresche del mattino o quelle più tarde della sera per andare a fare il loro allenamento. E soprattutto un consiglio che do sempre agli amatori è la filosofia con la quale loro vanno a seguire, diciamo così, questo percorso del correre, che è quello salutistico, è quello del benessere, quello dello star bene, quello del vivere in salute, dell'avere e del toccare con mano i benefici che tu ne hai da fare queste attività. È un grandissimo antistress la corsa, è un momento bellissimo nell'arco della giornata se organizzato, ripeto, in maniera intelligente. Andare a correre e con una tuta addosso nelle ore calde, fra mezzogiorno e le 3 e le 4 del pomeriggio, è un po' follia. Perciò, primo consiglio, scegliamo l'orario giusto. Secondo consiglio, ma quello fondamentale, come dico sempre, prendiamo la cosa con una certa facilità. L'obiettivo qual è? È quello dello star bene, è quello della salute, non è quello dell'atleta evoluto, che invece guarda solo alla prestazione, guarda solo all'ordine d'arrivo, alla classifica o il tempo. Ecco, l'amatore deve avere questo diverso approccio con la corsa, che appunto è legato allo star bene e all'averne e godere dei benefici dell'attività fisica e della corsa in particolare. Parole sagge che sottoscrivo, aggiungendo un terzo consiglio: acquistate e leggete allora Mi chiamavano professor Fatica di Luciano Gigliotti e Claudio Rinaldi, Ediciclo editore, e poi magari da settembre col fresco provate anche ad imitare quei campionissimi che Rinaldi e Gigliotti raccontano in queste splendide pagine. Intanto un grazie a Luciano Gigliotti, complimenti e anche auguri per il recentissimo compleanno. Grazie a voi. E un grazie a Claudio Rinaldi. Claudio, complimenti e ti aspettiamo presto di nuovo qui a bordo campo. Grazie Dario, grazie a te e un saluto a tutti. A bordo campo. Da Crotone a Olimpia, in bicicletta, in nome di un sogno, di un ideale, di un valore a cinque cerchi. È la sfida che oggi vi raccontiamo qui a bordo campo, perché ci sono due ciclisti, due cicloturisti, due amatori, due appassionati delle due ruote abruzzesi, che hanno proprio scelto di testimoniare il loro amore per le Olimpiadi, per i cinque cerchi e per le due ruote in modo del tutto particolare, lanciando una sfida che però è anche una testimonianza di fedeltà a un ideale: pedalare da Crotone poi a Brindisi, imbarcarsi poi in Grecia, attraversare la Grecia e sempre in bicicletta arrivare ad Olimpia, la culla dei grandi giochi olimpici, per testimoniare la fedeltà al valore della tregua olimpica e rilanciare questa sfida, questo valore, anche in vista delle prossime Olimpiadi, ormai quelle di Rio de Janeiro 2016. E allora ci colleghiamo proprio con i nostri due cicloamatori sulla strada del ritorno, perché a Olimpia ci sono stati proprio poche ore fa, li becchiamo sulla strada verso Patrasso. Allora, benvenuti a Valerio Di Vincenzo e Peter Ranalli. Ben trovato Valerio. Ciao a tutti, grazie per averci chiamato. Siamo a Catacolo, in un porto che ospitava anche le navi che venivano dalla Magna Grecia principalmente, per raggiungere Olimpia nei tempi antichi. Beh, direi straordinaria la sfida che avete lanciato, no? Bike for Truce, cioè bicicletta per la tregua, no? Pedalare per la tregua. Ecco, innanzitutto quanti chilometri vi state sobbarcando, alla fine quanti saranno tra andata e ritorno, Valerio? Beh, devo essere onesto, abbiamo dovuto utilizzare soprattutto in Grecia dei mezzi pubblici perché le strade sono veramente, diciamo, difficili da percorrere. Sono pericolose, sono strade che condividiamo con macchine che vanno velocissime, camion e quant'altro, e però qui già in Grecia abbiamo percorso circa 150-200 chilometri finora, ce ne restano un centinaio, 120 circa. Beh, vabbè, non è che avete fatto proprio poco per essere amatori, insomma Nibali è un'altra cosa, ma diciamo che gli lasciamo volentieri la maglia del Tour de France. Senti, come nasce questo progetto, questa idea, questa sfida? Il progetto è già, diciamo, consolidato. Noi nel 2012 abbiamo percorso le strade del Belgio, della Francia e della Gran Bretagna per raggiungere Londra 2012 durante il periodo olimpico. In quell'occasione abbiamo proprio manifestato, eravamo un gruppo di 12 ciclisti, abbiamo manifestato davanti a Westminster questa volontà di affermare il concetto della tregua che sancito da delle risoluzioni dell'ONU, ma che purtroppo non ha trovato ancora un'affermazione. E qui in Grecia, e diciamo anche nel percorso che appunto ci ha visti in Italia toccare alcune tra le più importanti città della Magna Grecia, appunto Crotone, Sibari, Policoro, Taranto soprattutto, è stato un po' un percorso ideale, quello ipotetico per via terra che consentiva agli atleti, ai pellegrini, alle delegazioni delle città-stato di raggiungere Olimpia durante le celebrazioni. Era un periodo abbastanza lungo a quel tempo e consentiva appunto al popolo greco di riunirsi e di trovare un'occasione per probabilmente, possiamo immaginare, durante queste celebrazioni che avevano un senso principalmente religioso, di trovare l'occasione per sanare dei conflitti, per trovare delle opportunità di mitigare la situazione di continua belligeranza che sicuramente i greci a un certo punto, grazie al consiglio dell'oracolo di Delfi, riuscirono a superare per secoli. Eh sì, insomma, che ci mettesse almeno una buona parola a lui e soprattutto anche la buona volontà degli uomini che aspettavano questa tregua. Ecco, che impressione vi ha fatto Olimpia? Che emozione è stata visitare quei luoghi sacri per ogni appassionato di sport e di storia? È molto emozionante, soprattutto per chi ama, diciamo, non solo la storia, lo sport e anche appunto la rievocazione che poi c'è stata con le Olimpiadi moderne. I resti parlano di un sistema perfettamente organizzato affinché nei 5 giorni che le celebrazioni occupavano a quei tempi potessero dimostrare la presenza, anche alcuni dei valori che caratterizzavano gli atleti di allora. Abbiamo potuto scoprire i luoghi dove gli atleti per oltre un mese si allenavano prima delle Olimpiadi sotto l'osservazione, sotto gli occhi diciamo attenti di giudici e di pedagoghi che non solo misuravano le loro capacità di poter affrontare le gare olimpiche, quanto anche le qualità etiche, le caratteristiche umane di questi individui. Sono aspetti estremamente interessanti e secondo il nostro punto di vista estremamente attuali. Beh, come darti torto, Valerio? Valerio Di Vincenzo, so che lì vicino a te c'è il tuo compagno di viaggio, Peter Ranalli, che è anche cicloregista di questa avventura. Allora, passacelo un attimo al volo, va, che gli rubiamo un minuto. Altro, subito. Sì, pronto. Ben trovato, Peter. Buongiorno a voi. Allora, per la chiamata. Dicevamo sì. Con Valerio della grande emozione di visitare Olimpia. Ecco, tu sei anche testimone visivo perché stai realizzando una sorta di documentario su questo vostro viaggio, vero? Esattamente sì. A tal proposito mi piacerebbe ringraziare un po' tutte le persone che abbiamo incontrato. Mi piacerebbe citare Giovanni Arone a Crotone, un giovane artista, avvocato, che ci ha raccontato tante cose molto interessanti su quello che è stato uno dei più grandi atleti della storia greca, che era un italiano, quindi, perché era di Crotone, e si chiamava Milone, che pare abbia vinto roba di 10-12 Olimpiadi, pare che sia stato un colosso gigante. Non da poco, non da poco, ce ne vuole per batterlo, altro che Bolt, insomma. Sì, era una cosa incredibile. Mi piacerebbe salutare anche il professor Sebastia, che abbiamo incontrato a Policoro, Paolo Toma, che ci ha accompagnato per un tratto da Taranto a Brindisi in bicicletta, facendoci fare un tracciato in bicicletta davvero incredibilmente bello. Straordinario, tutte le persone che poi raccontano questo viaggio, ma parlaci proprio invece di come lo racconterai tu con la tua telecamerina. Per me è stato proprio un motivo di ricerca fare questo tipo di documentario, per me è una ricerca farlo, perché sto facendo un po' tutto da solo e lo sto facendo in bicicletta, quindi mi sono portato tutta l'attrezzatura, non solo la telecamerina piccola, ma anche una macchina professionale, dei microfoni adatti per questo tipo di avventura, e quindi sto facendo un po' le cose per bene, ma lo sto facendo tutto da solo in bicicletta, che è un esperimento abbastanza, per me, nuovo, quindi di ricerca. Insomma, ci vuole parecchio equilibrio, eh. Bisogna stare attenti, mi sono messo in gioco sulle strade, in qualche modo mi devo anche affidare verso il prossimo, perché non devo sperare che nessuno mi investa con la macchina. No, per carità, non lo diciamo, ci invochiamo anche una tregua automobilistica a sostenere il vostro viaggio. Allora, grazie Peter, ripassaci un attimo Valerio, così vi lasciamo poi rinforcare le vostre biciclette. Sì, va bene, ok, grazie ancora, arrivederci. Caro Valerio, ti rubiamo ancora un minuto prima di lasciarvi al vostro cammino sulla strada di rientro verso l'Italia per ricordare che si pedala ora verso Rio de Janeiro 2016. Qual è l'ideale, il valore, la testimonianza che volete portare a Rio con Bike for Truth e sempre in bicicletta, ricordiamo. L'occasione di Rio che deve essere ancora strutturata, noi ci auguriamo in effetti in questo momento di riuscire a trasferire un concetto che Peter ha introdotto, che è l'idea che tutta la nostra iniziativa è legata a una forma di ricerca. Noi cerchiamo i percorsi, cerchiamo le persone, cerchiamo ciò che la storia ci ha insegnato, e peraltro devo dire anche che noi abbiamo avuto il sostegno innanzitutto, forse principalmente sotto questo punto di vista, dell'Università di Chieti Pescara, in particolare della Facoltà di Scienze Motorie, e della società Valagro, che è questa società, diciamo, che io individuo come una società che è fondata sulla ricerca, fondata sull'economia della ricerca. E questo è il messaggio che cercheremo di concretizzare a Rio, nel momento in cui proponendo un modello di partecipazione di piccoli gruppi individuali che si daranno appuntamento in una località di Rio de Janeiro, che dobbiamo ancora definire, e che appunto nell'arco dei quasi 2 anni che abbiamo di tempo fino a quel momento si possa concretizzare come un evento mondiale. Non è facile immaginare una cosa di questo genere, ma questa è la ragione per cui ci rivolgiamo anche appunto a degli sponsor, ma non solo sponsor in termini economici. In un certo senso dobbiamo conquistare una credibilità, diciamo, nella forma indipendente con la quale ci muoviamo, non è così semplice da guadagnarsi. Direi però, Valerio Di Vincenzo, che insieme a Peter Ranalli, alla Fondazione Olos che promuovi e vi sostiene, e a tutti i vostri compagni di viaggio e d'avventura, siete sulla strada giusta. Allora, io intanto vi ringrazio per essere stati ospiti oggi a Bordo Campo qui su Radio 24, vi auguro buona pedalata per il rientro in Italia, e soprattutto pedalando vi auguro davvero di arrivare a Rio 2016 con questa grande sfida, con questo grande progetto, rilanciare e riempire di nuovo significato la tregua olimpica. Ti ringrazio e ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Anche per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it, riascoltarci dal nostro sito radio24.it, da dove potete scaricare anche il podcast di A Bordo Campo. L'appuntamento con A Bordo Campo è come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci. We'll be right back.